Altro tema di cui si discute in queste ore riguarda le questioni generali, economiche, la crescita degli Stati Uniti che va male, quella dell'Europa che va un po' meglio, che cosa occorre fare. Però il tema grosso della giornata è la famigerata lotta alla povertà. Stasera ci sarà un incontro formale tra gli 8 e i capi di Stato di alcuni dei paesi più indebitati, il Mali, il Bangladesh, la Nigeria e poi ci sarà anche rappresentanti dell'Algeria. Allora, su questo incontro, dicevo, si giocano le sorti mediatiche, perché potete bene immaginare quando ci sarà la foto di gruppo, il capo dello Stato, Bush, Berlusconi, Schröder, tutti quanti insieme in questa intesa cordiale e solidale dei ricchi per aiutare i poveri. Quanto poi ai meccanismi di produzione della povertà, lì naturalmente nulla si dice e nulla può essere contestato, se non vale la pena di ricordare, perché se non fosse tragica la questione, appunto, dovrebbe essere comica, che Bush, prima di arrivare in Gran Bretagna, ha parlato esplicitamente di una sua idea, proposta, qui se ne fanno molte, e cioè dire, beh, non parliamo più di finanziamenti, di aiuti, di crediti ai paesi poveri, perché non li trasformiamo tutti in donazioni? Questo principio, diciamo così, caritatevole e solidaristico, che trasforma un aiuto, che è un investimento e che ha uno scopo produttivo, in una vera e propria donazione, la mancia. Di questa cosa ovviamente se ne sono accorti diversi, quello forse più puntuto e acido, giustamente aggiungerei io, nei confronti di Bush è stato il Financial Times, che certo non si può dire per essere tra i maggiori sostenitori degli aiuti, diciamo così, allo sviluppo e dei cambiamenti dei modi di produzione del sistema capitalistico mondiale. Ebbene, il Financial Times ha ricordato al presidente Bush dicendo, ma in questo modo perché non lo dice esplicitamente? Questo significa prosciugare una cassa già vuota, che è quella appunto degli aiuti ai paesi poveri. Si chiamano i Pink, un gruppo particolarmente creativo, diciamo. Con loro c'è il nostro Luca Recanati. Pronto? Buongiorno a tutti. Sì, qui c'è una situazione di cariche e soprattutto di lancio di lacrimogeni. Mi trovo nella zona di Via Goito, dove c'è una delle barriere protettive. I Pink sono all'incirca un 300-400, io in questo momento mi trovo dietro il cordone di polizia. Ci sono gruppi anarchici italiani di Torino, di Genova, ma sono soprattutto i tedeschi e gli inglesi i più numerosi presenti qua, senza contare poi dopo altre 200-300 persone che comunque appoggiano questa azione dimostrativa che stanno facendo i Pink, molto colorata. Loro ballano, fanno canzoni e ogni tanto cercano comunque di sfondare sia il muro delle forze dell'ordine che anche precedentemente quello delle reti, quando hanno proprio cercato di buttare giù proprio fisicamente le reti con delle corde, ma gli idranti e soprattutto la resistenza che hanno queste reti non hanno permesso di battere il muro. Io sono al quarto piano di un palazzo a casa dei gentilissimi signori d'Amico e sono qui praticamente sopra la manifestazione delle tute bianche o dei disobbedienti, per meglio chiamarli. E è un colpo d'occhio veramente impressionante, sono tantissimi, ma soprattutto sono i colori sono il giallo, sono il colore arancione dei giubbotti, quelli da salvataggio per il mare, è una fiumana che prosegue, io mi sto sdraiando per vedere meglio da questo balcone, è una fiumana che prosegue per diverse centinaia di metri, compatta, assolutamente compatta, preceduta, come sapete, avete sentito prima, anche da questo scudo di collettivo di plexiglass, e poi dietro un'immensa manifestazione colorata di bianco, di rosso, di arancione, con alcune bandiere, il megafono annuncia, la gente applaude, ogni tanto parte un coro. Cuidado la sera, cuidado el deseo, que te andan buscando.